piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Non ho mai chiesto in 20 anni niente da nessuno, niente. Né un euro regalo, né una sigaretta. Se non ho una sigaretta, mi sto appoggiando, prendo due musichini di sigarette con una cartina che costa un centesimo e mi lo... Ma non staresti meglio al caldo stanotte? No, io mi sono abituato così. Sono venuto qua perché c'è più, diciamo, mangiare, più... Ho visto che ora mandate via, come viene me ne vado via. Tanto, 20 giorni me ne vado. Ci sono 2 gradi sotto zero stanotte. Ma io sono di sotto, tranquillo. Anzi, lo sa che è morto un senza tetto, è morto la notte scorsa? Non lo sapevo. Mi rendo conto di essere fuori tempo. È come portare il panettone a Pasqua. Però mi va di parlare di questo argomento. Lo spunto me l'ha dato oggi un pezzo che è richiamato in prima di Libero di Azzurra Barbuto, I clochard muoiono come le mosche. Magari è un titolo che ha qualche forzatura, però dall'inizio dell'anno 3 persone sono morte per strada. L'ho citato prima con il collega del giornale radio, anche ieri a Milano è morto una persona senza fissa dimora per strada. L'hanno trovato davanti a un supermercato dove dormiva per il freddo, aveva 47 anni. L'ha visto un passante, si è arrivato al 118, ma era morto. Non c'era nessun segno di violenza, è morto dal freddo. Ma mi è capitato, guardate, proprio ieri, tornando a casa, nel meraviglioso quartiere Prati di Roma, vicino Piazza Mazzini, dove c'è un luogo per aperitivi, dove passa ogni pomeriggio il fiorfiore dei postulanti RAI, perché è vicino alla RAI del Cavallo di Viale Mazzini. Vanno e vengono signorine di belle speranze, gagliardi giovani, ogni tanto occhieggia qualche capostruttura, qualche sottodirettore, qualche galuppino di palazzo. Insomma, lì c'è bella gente, sono belle luci, c'è movimento. E c'è anche una sorta di gabbiotto dove si doveva aspettare l'autobus, ma non ci passa, penso, più nessun autobus. Quindi ci sono 3 pareti di plexiglass con una panchina, con le panchine in cui non ci si può stendere, fatte apposta per stare soltanto seduti. Da qualche giorno, penso a qualche settimana, c'è un accampamento dentro, è pieno di stracci, di coperti, sono 3-4 persone che dormono. Nessuno ci fa caso, c'è la questura 2 passi avanti, ma non perché ci si debba fare qualcosa, probabilmente non c'è nulla da fare, ma c'è in quell'agglomerato di stracci, di barattoli, ci sono 3 esseri umani. Io li vedo perché è la strada che faccio per venire a lavorare, ogni mattina li vedo ogni notte e non so nemmeno capire se siano morti magari da 3 giorni o sono vivi, perché sono immobili, stanno sempre lì, ormai si sono fusi con le coperte, con gli oggetti, con i cartoni di vino scadente, tutto messo insieme, è stato un agglomerato. Voi direte, beh, che ci importa, succede, è un fenomeno su cui non si può fare nulla e quindi ci sono. Sì, a me sorprende che però almeno una volta, vuoi per esercizio di buon cuore e vuoi per sentirsi vicino alla gente, di queste cose qualcuno parlava. Ieri per caso avevo incontrato alla stazione Termini Rulli Frulli, li conoscono, sono dei concertisti eccezionali che fanno concerti in cui includono persone disabili, e io l'ho portato qua e ne abbiamo parlato. Mi sono reso conto che nessuno parla più di persone disabili che non hanno un futuro quando non c'è più la famiglia, come nessuno parla più di persone senza fissa dimora. Vi rendete conto che il dibattito politico, il dibattito sociale oggi si è spostato su temi inesistenti, sulla paura, sulla contrapposizione, sul parlate di Bibbiano, su Cialtrone istighi all'odio, insomma sono temi che vanno benissimo, sono chiacchiere che si possono fare nelle disfide tra bullette di paese, ma nulla hanno a che fare con la realtà. Ci sono degli aspetti della realtà che adesso sono completamente taciuti, e uno di questi è appunto le persone che non hanno una dimora. Vogliamo parlarne oggi non perché pensiamo che si risolva il problema o qualcuno debba fare qualcosa, ma da quello che dice appunto l'articolo di Azzurra Barbuto, in Italia ci sono 51.000, In queste notti molti rischiano di morire per ipotermia e molti moriranno per ipotermia. Mentre noi ci poniamo altri problemi, e ci sono delle persone comunque che muoiono per ipotermia. Chi sono? Sono italiani, quindi prima gli italiani, e sono stranieri, sono infiltrati, residui della società, persone che comunque andrebbero in qualche maniera reintegrate, emarginate, allontanate, non lo so. Mi pongo il problema e oggi ne voglio parlare. 800240024, oggi domande e qualche risposta sui senza tetto. Lavoravo in albergo. E da quanto tempo non lavora più? Nel 93. Non ha una pensione, nulla? Ah sì, ma è poca. Basta un attimo per diventare un barbone, o quel che più elegantemente si definisce un clochard, una persona senza fissa dimora. Lavoravo in santuario di divino amore, a Pomezia. Poi cosa è successo? Niente, ho litigato a casa e sono stata. Non ho documenti e nemmeno soldi, dunque sono costretta a dormire in strada. Sono una cittadina tedesca. Vengo qui intorno alle 6 di pomeriggio. Qui non c'è niente di niente. Verso le 9 già si dorme. Poi al mattino qualcuno va in cerca di un lavoro, di un campo attrezzato. Io di solito sono appassionato di argomenti futili e di circostanze che fanno sorridere. Farei 10 trasmissioni sulle svolta Filetti, che sono le signorine dalla coscia avvenente che turlupinano avvocati commercialisti dei parioli e si fanno invitare a cena senza dargliela. È bellissimo, è divertente. Però oggi voglio parlare di qualcos'altro. Voglio parlare di questo gradino infimo della dignità umana, infimo perché è quello più basso, in cui tutti possiamo scivolare ogni momento e capire esattamente se ci sono soluzioni a questo problema o perché in questo momento è un problema che sembra dimenticato anche sotto gli occhi di tutti. Le città italiane pullulano di gente che dorme per strada. Anche la civilissima Milano, se vi capita di uscire dalla stazione centrale di notte, vedete che sotto i porticati, di fronte a una banca, protetti dalle telecamere di sorveglianza che dovrebbero proteggere i cavò, ma in realtà proteggono l'incolumità, c'è una fila lunghissima di persone che dormono per terra. Cristina Vonto, buongiorno. Buongiorno. Presidente Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, FIOSPD, ma non si pronuncia malissimo, comunque meglio dirlo per intero, che è un'associazione che riunisce tutti gli enti che sul territorio si occupano di emarginazione adulta e delle persone senza dimora. Cristina, la mia impressione è un mio attacco mattutino di buonismo, o veramente in questo momento sembra fuori dell'ottica generale, l'attenzione generale, il problema delle persone che non hanno una dimora, che sono praticamente nemmeno dei numeri, nessuno sa nemmeno che esistano. Sicuramente è un fenomeno che viene chiamato del sommerso, un fenomeno nascosto, perché è un fenomeno molto scomodo, un fenomeno che ci interroga, è un fenomeno che mette davanti ai nostri occhi il fatto che ci sono persone, perché chi sono le persone senza dimora, chi è dentro quei fagotti di cui parlava prima, sono persone, sono cittadini, sono persone a cui sono negati i diritti fondamentali dell'essere uomo. Gli è negata la sicurezza, la protezione, il fatto di potersi lavare, il fatto di potersi curare. E rispetto alla domanda se non c'è nulla da fare, io avrei qualcosa da dire. Ci occupiamo di loro quando muoiono e ci occupiamo di loro quando muoiono d'inverno. Noi oggi abbiamo lanciato una piccola provocazione: non muoiono solo d'inverno, queste persone muoiono lungo tutto l'anno. È chiaro che d'inverno ci fa più effetto perché sentiamo tutto il freddo, ma le condizioni in cui loro vivono li portano alla morte anche d'estate, perché sono condizioni eccessive, estreme, non sono condizioni subumane. Ecco, vediamo di dare qualche numero, perché noi abbiamo una fetta di popolazione di cui molti sono persone che hanno le stesse nostre radici, anche perché voglio azzerare ogni tipo di possibile replica. Ma tanto è una loro scelta, tanto è impossibile toglierli da questa condizione, tanto se poi anche gli aiuti ritornano sempre lì. Benissimo, tutto questo. Una percentuale alta, da quello che io ricordo in trasmissioni passate, è fatta da persone che potrei essere io o potrebbe essere lei, Cristina Vonto, che per circostanze della vita che nessuno può predeterminare una rottura importante in famiglia, un problema di lavoro, un momento depressivo. Improvvisamente una persona che è allevata, è un bambino, nasce, fa scuola, fa i compleanni, fa i Natali, fa le Pasque, c'ha le nonne, le mamme, le zie, cresce, diventa un adolescente, c'ha i suoi amori, si innamora, si sposa, figlie, è felice, al lavoro, ha le soddisfazioni, si trova a essere quel fagotto di stracci che incontro tutti i giorni quando vado a prendere l'autobus. Quanti sono? Quali sono questi numeri? E vediamo se dal punto di vista proprio delle categorie che compongono questo agglomerato umano è possibile dare qualche dato più certo. Assolutamente. I numeri che abbiamo certi da Statistica Nazionale che abbiamo condotto con Istat sono un po' vecchi, sono del 2015 ed hanno un numero intorno ai 50.000 in Italia. Questo numero oggi sicuramente è cresciuto. I nostri centri di accoglienza, i punti di contatto con queste persone ci danno dei numeri in crescita e ci danno una fotografia di chi sono le persone oggi. Queste persone senza dimora sono assolutamente persone che fino al giorno prima di diventare persone senza dimora vivevano in una situazione normale, in una casa, sono nati e cresciuti in situazioni di normalità. Sono italiani, tanti, veramente tanti, gli italiani sono in crescita, sono più del 50% oggi. Quindi sono 25.000 donne. Italiani vivono per strada, come lo vedo sì. Io, avvolti negli stracci, abbandonati sul marciapiede. Così. Sono donne, ci sono tantissime donne che hanno gravi problemi di salute, che hanno rotto i loro legami familiari, donne che non hanno un potere economico sufficiente a seguito della rottura, magari della loro relazione, di sopravvivere in condizioni differenti. Ci sono tanti giovani, il dato sui giovani a me spaventa tantissimo, sono giovani che hanno rotto i loro legami familiari, che non sono più in grado di sostenerli perché non hanno obiettivi e non hanno progetti. Giovani che hanno sicuramente problemi di dipendenze, di salute mentali, ma che non hanno più una rete attorno in grado di occuparsi di loro, familiare, di servizi, e questo è un dato impressionante. I giovani al di sotto dei 30 anni sono costantemente in aumento, ogni anno troviamo giovani senza dimora. Diciamo c'è un coacervo, un ammassarsi di fragilità che portano a questa situazione, sì. Ne citate due, io le colgo: la fragilità psichica per persone con problemi di equilibrio, una volta fuori da quello che è il controllo, l'assistenza della famiglia, un tema che ho toccato ieri, sono soli a se stesse, quindi per loro la soluzione all'internamento in una struttura che non augura a nessuno, dico sinceramente, è quello di fare una vita Prada. Apparentemente una scelta di libertà, ma è una scelta di tortura quotidiana. Quanti episodi abbiamo avuto recentemente di persone seviziate, tartassate, perseguitate, anche perché poi diventano il bersaglio di chi è invece nella scala ultima della catena dei valori umani attivi, di chi pensa che magari è un gioco divertente come attaccare una torcia accesa alla coda di un cane, dare fuoco a un essere umano che sta per strada. Sentiamo Marco. Marco, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Io sono 30 anni che vivo nella strada, vabbè, non vi racconto la mia storia personale perché bene o male tutti quanti noi ragazzi di strada abbiamo avuto un problema, chi l'ha scelto, chi o meno. E finiamola così. Ma lei vive per strada anche adesso, Marco? Sì, io sono nella strada, sono già 57 anni e sono nella strada da 30 anni. Solo per capire perché ci ascolta. Lei ascoltava la radio per la strada e ha un telefono e mi chiama dalla strada. No, io ho una radio che se mi manca quella non riesco. Ascolto tutto il giorno Radio 24. Ma dove sta esattamente lei? Dove sta esattamente lei? In che città? Gli ho detto prima ai suoi collaboratori, facciamo che sono Livorno. Livorno, no, non voglio sapere il posto esatto, una città italiana. Mi dica, allora, non voglio sapere la via, la situazione in cui si trova, dove è seduto in questo momento? In questo momento sono seduto sopra quel piccolo letto che ho, che bene o male mi hanno lasciato una roulotte, un ragazzo che purtroppo l'ha preso il destino perché aveva il cancro. Con la paura che me la portino via da un momento all'altro, perché comunque non so. E è parcheggiata lungo una strada la roulotte? È parcheggiata in una strada, in una via di una città? No, in una via che sarebbe comunale, ma non lo so, quello che sto sentendo. Insomma, fuori da diciamo, dal passaggio di molta gente. Lei vive in questa roulotte, sì. E di cosa vive, Marco? Di cosa vive? Cercavo arrivare al buio fitto. Di cosa vive lei, Marco? Io, se mi lasciano, grazie a Dio, riuscivo a fare qualche collanina, perché io, bene o male, anche se sono invalido una gamba e una mano da un incidente stradale, facevo braccialetti, collanine col mio cane. Adesso il mio cane è morto circa un anno fa e niente, da solo mi viene male a farlo. Comunque, anche quando lo facevo col mio cane, con quel piccolo tappetino che facevo seduto o in una panchina da una parte o con un seggiolino che mi portavo dietro, tutte le volte o i vigili o i carabinieri dovevi andare via, cioè non potevi fare niente, dovevi solo emarginarti, cercare, se ti dicevano c'è la Caritas. Ma io sono uno di quelli che la Caritas non è che mi ci va poi più di tanto, anche perché qua in questo posto dove sono io devi prendere l'autobus e ci vogliono 20 chilometri, il biglietto il comune non te lo fa, in più se sali e ti capita il controllore e devi scendere, scendi a mezza strada e rimani 2 ore, chiudimi nella strada. Ecco Marco, però mi deve dire, che tipo di sussistenza lei, di cosa vive? Adesso mi telefona, quindi apro un telefono. Io adesso ho avuto la fortuna e la ringrazio, questa fortuna, e sto facendo anche la documentazione per la pensione, l'ho finita, sto aspettando solo che mi chiami il patronato per darmi l'ultima risposta, sì o no. Ah, quindi ancora non ha nemmeno una pensione? No, non c'ho niente, io l'ho fatta già 2 volte e non muovo una gamba, una mano. Sì, ripeto, Marco, di cosa vive lei? La fortuna che ha avuto è che Di Maio mi ha fatto avere il sussidio di 500 euro. Quindi ha reddito di cittadinanza? C'ho il reddito di cittadinanza, sì. Ma le hanno offerto dei lavori? Il reddito di cittadinanza non è un contributo alla povertà, serve per avere modo di trovare un lavoro. È stato avviato verso dei percorsi professionali di impiego in qualche maniera? Ma io gliel'ho chiesto anche al CAF, a tutti quanti quando vado lì, anche a pulire le strade, perché se mi fate sollevare i pezzi c'ho una placca nel collo, ho fatto 2 anni che... Allora Marco, aspetti un attimo, ci fermiamo un istante che devo dare la linea, però il suo mi sembra un caso esemplificativo. Lei è a tutti gli effetti un senza fissa dimora, perché vive in una roulotte, non ho capito di cosa sopravviva, me l'ha detto, ha reddito di cittadinanza, dovrebbe essere comunque una forma di avviarla in qualche maniera, recuperarla al mondo del lavoro, però lei mi dice ha dell'invalidità in cui non potrebbe lavorare. Allora voglio capire bene il senso di tutto questo assieme a Cristina Vonto. Ci fermiamo un istante. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. Vuoi aprire un'attività innovativa e di successo? Bene, sto cercando proprio te. Sono Super Zibaldo. Insieme possiamo fare grandi cose. Grazie a me potrai proporre a privati ed aziende tanti servizi. Dall'apertura di conti ai finanziamenti, dai pagamenti alle ricariche, dai servizi postali a quelli digitali e tanto altro. Tutto in un unico negozio. Ti offrirò la formazione e ti affiancherò per le abilitazioni richieste. Registrati su zibaldo.it e riceverai un'offerta promo esclusiva per te. Scegli il franchising Zibaldo. Per te, oltre la banca. Propositi per l'anno nuovo. Dieta. Sì, da lunedì. Palestra, al massimo soft yoga? Prendermi del tempo per me. Sarà il solito tempo di un caffè. Almeno sul caffè non scendere a compromessi. Inizia l'anno con la qualità superiore di Nespresso. Con Nespresso White Days puoi avere macchine e caffè a un prezzo straordinario fino al 19 gennaio. Andare nelle boutique Nespresso o su Nespresso.com. Nespresso, what else? Ormai sai usare la fatturazione elettronica. Crei, invii e ricevi fatture ogni giorno. Ma ti sei accorto di spendere troppo? Passa alla fatturazione elettronica di Aruba. Puoi importare da altri sistemi i tuoi clienti, i prodotti, i servizi e le fatture in una soluzione completa e conveniente. Chi l'ha scelta non la lascia più. Risparmia con la fatturazione elettronica di Aruba su aruba.it. Edizione straordinaria, il primo cane atterrato su Marte. Ma no, basta fake news. Monge non racconta storie. Le nostre crocchette sono 100% made in Italy e la carne è sempre il primo ingrediente. Monge, il pet food che parla chiaro. Follower, follower, follower. Per avere un follower fai di tutto. Fai le foto all'auto, al cane, ai tramonti o alla bresaola. Tu segui lui, lui segue te, girotondo, casca al mondo, casca alla terra. Ma quando hai bisogno? Per la tua polizza auto non servono tanti follower. Ne basta uno serio, come Zurich Connect. Online 24 ore su 24, che ti offre una polizza auto da 220 euro con l'esperienza svizzera del gruppo Zurich. Perché essere online è una cosa seria. Zurich Connect, online da 150 anni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su zurichconnect.it. Melog. Un esercito, 8.000 persone, senza casa, senza lavoro, invisibili. Li accomuna la povertà, una vita al limite, all'addiaccio. A Roma, dall'inizio dell'inverno, ne sono morti almeno 8, vittime del freddo, della violenza, dell'indifferenza. Ci uniamo ai volontari della comunità di Sant'Egidio e andiamo da loro, nei sottopassi di Porta Pinciana. Mi rendo conto che si è persa l'abitudine a sentire parlare di questi temi. Leggo qualche commento nel canale Telegram di Melog ha parlato, di solito sono persone che ascoltano, attenzione, vedo la battuta: avete mai visto un barbone di colore? A parte che forse è meglio chiamarli senza fissa dimora, non perché il politicamente corretto assolva o attenua la loro condizione, ma mi piacerebbe che dicessero di vostro figlio un barbone o di vostro padre un barbone. È un termine dispregiativo, sono persone senza casa. Beh sì, ne vedo, uscite da Radio 24 puntualmente, ce n'è uno che dorme dietro, ficcato in mezzo alla ringhiera, dietro il parcheggio dei taxi di Piazza Indipendenza. Vai e viene, ogni tanto va, ogni tanto viene, in una specie di melma di cibo avariato e sempre gli stessi cartoni di vinaccio. Quello sì, è nerissimo, super nero, figuriamoci. È uno, ve ne posso citare tanti altri. Cosa vuol dire? Vuol dire che i neri sono pagati dai famosi 30 euro al giorno e quindi non c'è bisogno che vadano per strada, prima gli italiani. Beh, avete sentito, l'italiano l'abbiamo fatto sentire adesso. Allora ricordo Cristina Avonto, che è la nostra ospite, che è presidente della Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, che riunisce tutti gli enti che si occupano di questo problema. Cristina Avonto ha sentito il nostro ascoltatore Marco, che fra un po' riprenderà a raccontare la sua storia, con la sua impressione su questo, questa persona che ci ha chiamato. Non è che l'abbiamo cercato, ci ha chiamato lui. È esemplificativo di una categoria che voi conoscete? Il signor Marco ha raccontato molto bene quella che sono le fatiche della vita in questa condizione, appunto la mancanza di protezione, la mancanza di possibilità di organizzarsi, lo stigma che lega questa situazione, per cui le persone comunque si vergognano molto spesso di essere arrivati in questa condizione. Quello che emerge, insomma, mi ha fatto molto tenerezza il riferimento al suo cane morto. Spesso le relazioni sono relazioni importanti con un animale che diventa un compagno di vita. A me, Cristina, due cose però mi fanno pensare: primo, la pensione che deve prendere, ottenere, e secondo, il reddito della cittadinanza, con tutto sono contento che abbia di che sostenersi, non mi sembra proprio lo strumento adeguato per seguire questo tipo di problema. Se una persona invade che non potrà mai lavorare, cosa c'entra il reddito di cittadinanza? Un altro, secondo me, il tipo di sussidio deve avere, o mi sbaglio, non lo so. Questo è uno dei grandi temi. Spesso queste persone sono persone che non riescono ad accedere ai diritti. Questo è veramente uno dei problemi che più spesso incontriamo. Riuscire ad accedere ai diritti, insomma, il signor Marco l'ha raccontato bene, richiede di andare negli uffici, richiede di produrre della documentazione complessa e non sempre le persone riescono a portare avanti questo percorso. Il signor Marco è uno di quei fortunati, diciamo così, che in questo momento usufruisce almeno di un reddito. È vero che è uno strumento improprio, ma credo che gli dia oggi una possibilità almeno di sopravvivenza. Il tema delle persone senza dimora che non accedono neanche a un primo strumento di sostegno è legato al tema della residenza, quindi un altro, l'ennesimo diritto negato. Persone che non hanno residenza non possono accedere né alla pensione, né al reddito di cittadinanza, né a nessuna presa in carico, alla tutela della salute, possono avere solo le prestazioni di pronto soccorso. Ma in questo caso si ovvia, mi sembra, con un escamotage, sono delle vie fantasmatiche che non esistono, che, a cui vengono assegnate le residenze delle persone senza dimora. Non tutte le città eleggono e danno la possibilità di prendere questa residenza fittizia. Spesso per ottenere questa residenza fittizia le città si inventano anche delle prerequisiti per cui devi dimostrare di essere da almeno un anno presente regolarmente sul territorio di quella città. Insomma, è un processo decisamente molto complesso e quello della residenza è sicuramente lo snodo principale per aprire la porta agli altri diritti. Sulla componente, visto che sta così a cuore in questo momento, fare distinguo per me non è fondamentale, sinceramente, lo dico sinceramente, non perché voglia stare dalla parte dei buoni, dei bravi e dei giusti. La componente italiana, cioè di persone che in realtà nascono con tutti i diritti, non devono conquistarsi nulla e si trovano in questa condizione, ha detto che è il 50%. Ecco, entrando più nello specifico, quali categorie? Lei ha detto, ha citato le donne è una percentuale altissima di donne che sono quelle le prime a aggiungere la fragilità di una condizione femminile che in sé è, dal punto di vista dell'autonomia può essere uno svantaggio, dal punto di vista del lavoro può essere uno svantaggio, dal punto di vista della fragilità fisica può essere uno svantaggio. Mettete quello che volete, ma una donna che dorma sola di notte in mezzo a una strada è più esposta di un uomo a rischi, immagino di violenza, di sopraffazione. Assolutamente, le donne sono una delle categorie più esposte, come giustamente sottolineava, a violenze, aggressioni, a pericolo, a problemi legati alla propria salute, al proprio igiene e quindi sicuramente la condizione della donna è una condizione estremamente drammatica e di fragilità. Chi sono queste persone? Sono le persone che in qualche modo sono le persone che hanno un percorso di fragilità, che hanno incontrato nel loro percorso di vita qualche rottura, qualcosa che ha creato una discontinuità, ma davvero può essere anche persone che avevano dei percorsi lavorativi stabili e che si sono bruscamente interrotti. Il fatto, abbiamo tantissimi padri di famiglia che non riescono più a garantire il tenore di vita alla famiglia e scappano dalla famiglia per la vergogna di non riuscire più a essere un padre. Capisco perfettamente questo stato d'animo. Mario, buongiorno. Pronto? L'ascolto. Buongiorno, salve. Volevo dire, io ho girato il Piemonte e la Liguria per lavoro e lungo e largo e ho visto tantissimi individui di cui stiamo parlando. Ne ho visti. Secondo me il soggetto che ha chiamato non è proprio un clochard, voglio dire, non nel senso stretto. Io vorrei parlare proprio di quelli che vivono in strada. Bene o male, lui ha un domicilio, se vogliamo. Beh, una roulotte abbandonata in una strada, è molto precario, sì. Sì, certo, però ecco, io ho visto letteralmente gente avvolta di coperte la sera e voglio sottolineare una dignità, una capacità di adattamento, una voglia di lottare che dipende da questo loro stato. Assolutamente io riscontro una totale mancanza di aiuto verso queste persone, con tutto rispetto per la persona, per la rappresentante dell'associazione che ha chiamato, però secondo me dovremmo veramente subito in prima linea aiutare queste persone, senza cercare, adesso non voglio fare un discorso politico eccetera, senza cercare altre categorie di bisognosi. Questi qua dovrebbero essere i primi ad essere aiutati, perché nel 90% dei casi, come voi avete detto, sono vittime di disgrazie che le hanno portati, che hanno portato queste persone a questo stato. Nel caso in cui molti dicono, perché leggo i messaggi che mi arrivano, che sono scelte volontarie, come se a un certo punto uno decidesse di fare lo stilita, l'anacoreta, dice basta, abbandono il mondo e scelgo la via dell'ascesi di fare il senza fissa dimora. Questa scelta è dovuta da comunque un problema di tipo psichico. Uno non è che può scegliere lucidamente di vivere in mezzo a una strada e in mezzo alla spazzatura. Non è, altri sono tipi di scelte. Uno va in montagna, va in un monastero. Le scelte mistiche nulla hanno a che fare, diciamo, con questa che non è una scelta, è sempre una condizione di obbligo che ha delle circostanze dolorose che la determinano. Ecco, smettiamo col fatto che molti mi scrivono: ma ne conosco uno ricchissimo. Sì, c'è gente che ha denaro in banca e vive per strada, ma è sempre una patologia, è sempre una disfunzione comunque del proprio equilibrio. Ci fermiamo un istante. Che programmi avete per quest'anno? Io vado a ritrovare me stesso in Asia, India, Giappone, Corea. Io sogno un safari in Sudafrica. Per me un weekend in Europa, Big Ben, Tour Eiffel, Plaza Mayor. Con Alitalia Smile Days viaggiare è contagioso, come sorridere. Solo fino al 22 gennaio tutte le nostre destinazioni in offerta a prezzi davvero imperdibili. Ad esempio Giappone da 469 euro andata e ritorno tutto incluso, anche il bagaglio. Info e condizioni su alitalia.com. Melog 800 24 0024. Stiamo parlando della condizione delle persone senza fissa dimora. Stanno arrivando qualche messaggio, tutti li segnalano in tutte le parti d'Italia, ma è logico che la città o realtà sociale aliena a questo fenomeno. Alcune città sono apparentemente più pulite perché queste persone vengono cacciate, allontanate, tolte dai centri storici, sono le panchine con la barriera per non far stendere le persone. Insomma, è come la spazzatura che si nasconde sotto al tappeto. La casa sembra pulita, però non è esattamente così. Da altre parti sono più sotto l'occhio di tutti. Occhio, non ci si fa più caso, nessuno ci fa più caso. Allora, quello che chiedo a Cristina Avonto, che è la nostra ospite, ma c'è una percentuale fisiologica nella società occidentale, avanzata, post-industrializzata, di queste persone per strada? Quindi dobbiamo comunque fare i conti che ci saranno sempre. È un problema che alcune società più elaborate delle nostre sono riuscite in parte a risolvere, o perlomeno ad affrontare. Io, insomma, porto la voce delle associazioni che di questo fenomeno si occupano. Noi riteniamo... Beh, non mi pare, se ne occupi qualcun altro oltre a voi, onestamente. Noi raggruppiamo circa 150 euro in, enti in Italia che si occupano di queste storie, quindi insomma è un fenomeno ancora un po' nascosto, ma di cui c'è una fitta rete di associazioni che si occupa. Ha ragione l'ascoltatore, bisogna occuparsene, bisogna stare vicino, bisogna vederli. Noi in realtà riteniamo che non ci sia nessuna persona che debba vivere per strada. Riteniamo che sia una condizione, un delitto contro l'umanità permettere a delle persone di vivere in quelle condizioni. Nessuno sceglie di vivere in quelle condizioni. Abbiamo proposto delle soluzioni, delle alternative, il che non vuol dire eliminare la povertà o eliminare problemi di salute mentale o eliminare le fragilità e le rotture, ma vuol dire dare un posto sicuro e di accoglienza per queste persone. Abbiamo promosso, da tanti anni stiamo portando avanti questo modello dell'housing first che dice mi scusi che Cristina, prima... mi scusi se mi faccio mie delle domande degli ascoltatori, vorrei sfatare qualche luogo comune perché ce ne sono tanti e molte volte noi stessi ne siamo schiavi, dando per realtà quelle che a volte proprio la fake news per eccellenza. Queste persone in realtà amano stare per strada, non starebbero mai in una casa con un tetto, una coperta, un letto, un pasto caldo. Alla fine tornano sempre lì perché loro hanno scelto di stare così. Queste persone sono nate, vite, cresciute in una casa, hanno abitato in una casa da adulti e quindi ogni volta che noi possiamo rimettere queste persone in una condizione di sicurezza e di casa, queste persone stanno in casa. Questo progetto che si chiama Housing First ha messo in casa oltre 1000 persone in Italia e abbiamo un 100% di successo. Le persone in casa ci stanno nel momento in cui ce l'hanno e hanno una cura, un'attenzione, perché recuperano sé la propria identità, la propria sicurezza, il volersi prendere cura di sé. E questo è un aspetto fondamentale, il ridare speranza. Ogni tanto c'è qualche battuta, ma le fa anche il Papa le battute: aprite le chiese quando è freddo, fate uscire, fate entrare dentro senza fissa dimora. Poi ho visto che alcuni programmi specializzati in questo si mandano inviati travestiti da senza fissa dimora, vanno a bussare ma nessuno li fa entrare, perché figuriamoci. Ecco, non può essere l'alternativa che aprano le chiese e dormono sotto le panche, mi sembra più una cosa, una grande trovata di marketing del buon animo. Purtroppo sì, il motivo per cui tante persone senza dimora effettivamente non accettano di spostarsi dai luoghi dove loro stanno, perché se loro si allontanano da quei posti viene buttato ciò che sono i loro pochi averi, la coperta, la borsa piena di pezzi di vita di sé, dentro quelle borse, dentro quei fagotti c'è tutto ciò che resta della loro identità. In più, come il signore che ha portato la sua testimonianza di vita ben raccontato, spostarsi per i servizi, spostarsi per andare a mangiare, spostarsi per andare a dormire è molto complesso, comporta che si debbano spostare per ore, non hanno i biglietti dell'autobus, vengono cacciati dai mezzi, è una vita veramente complessa. Quindi dire che non accettano di andare nei luoghi di ricovero temporanei non tiene conto di tutto quello che sto raccontando. Se loro lasciano quel posto, quello è il loro posto di vita, diventa la loro casa. E questo anche per noi ci sembra paradossale, ma esiste un'opportunità proprio psicogeografica nell'individuare questi posti, un androne, l'inferriata dietro il parcheggio dei taxi di Piazza Indipendenza, probabilmente un posto dove la notte, se piove, non ci si bagna troppo, dove si sentono un po' sicuri. Cioè ci sono i tassisti che fanno la notte, evidentemente sentono un po' più sicuri rispetto a altri posti, quindi sono posti strategici e quindi non pensate che sia lì per caso. Quindi esiste una geografia che segna nelle nostre città anche i luoghi di sopravvivenza migliori. Grazie Cristina Vonto, non è che pensiamo di aver cambiato il mondo, le mentalità, ma abbiamo dato il nostro contributo a parlare di qualcosa di cui sembra impossibile oggi parlare senza essere additati come i soliti buonisti, i soliti che stanno dalla parte sempre di quelli che ce l'hanno con gli italiani. Ecco, questo è un problema che tocca molto anche gli italiani. Alla prossima.